Il punto di Stefano Folli. La crisi verticale in cui si avvita Forza Italia, prigioniera di faide intestine riconosciute dallo stesso Berlusconi, il leader storico ormai prossimo all'affidamento ai servizi sociali, introduce un fattore imponderabile nella campagna per le elezioni europee, nella quale Beppe Grillo appare come il vero sfidante di Renzi, nel segno dell'anti-Europa e del rifiuto della moneta unica. Il Presidente del Consiglio invece si troverà a guidare il fronte europeista, sia pure distinguendo fra l'Unione di oggi, segnata dall'austerità tedesca, e l'Unione di domani, che Renzi vagheggia diversa, in forme peraltro da precisare. Quindi la domanda è: che strada prenderanno i voti in uscita da Forza Italia, pochi o tanti che siano? Una parte dell'elettorato berlusconiano è attratto dal dinamismo di Renzi, un'altra è suggestionata dal populismo anti-establishment di Grillo. Sono i due aspetti che Berlusconi ha saputo coniugare in se stesso per 20 anni e che ora tendono a separarsi. Da come si divideranno si capirà l'esito della sfida per l'Europa. Senza dimenticare i centristi di Alfano, anche loro cercheranno di tirare qualcuno dalla loro parte.